cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ma che cos'è quest'estate? Una nuova estate di preoccupazione perché la terra nel nostro paese torna ancora una volta a tremare. Questa volta succede ad Ischia, avete sentito la cronaca rilasciata anche dai colleghi del nostro giornale radio, anche con gli speciali che abbiamo organizzato appunto questa mattina, il nostro giornale radio delle 6.30, le 6 delle 6.30. Abbiamo appunto raccolto già alcune testimonianze che ci hanno aggiornato rispetto a quello che è accaduto nella notte appunto in questa splendida isola del nostro paese, ricca di turisti, e quindi ancora una volta una situazione molto seria che si ripercuote anche sulla stagione turistica, non solo naturalmente sulla vita di queste persone che già abitano lì. Allora, cosa è successo? Ieri sera, come sapete, in tarda serata, questa nuova scossa di terremoto magnitudo 4.0 ha colpito l'isola di Ischia e naturalmente subito si sono allertati i soccorsi per capire che bilancio si potesse già decretare. Al momento ci sarebbero due morti accertati, decine di feriti. Fra poco ci raggiunge Cristina Carpinelli per darci un nuovo aggiornamento della situazione. La buona notizia è che sono stati raggiunti due bambini che erano sotto le macerie, che si tentava appunto di raggiungere dalle ore scorse, due di tre fratellini, il più piccolo insieme a suo papà, questo ha 7 mesi appunto, sono già stati tratti in salvo, gli altri due di tre 5 anni sono stati individuati, raggiunti dai vigili del fuoco, sono ancora intrappolati fra i detriti, ma sono stati raggiunti, stanno bene, sono stati anche fatti raggiungere da delle bottigliette d'acqua per naturalmente dare loro un po' di ristoro. Allora, naturalmente per gli aggiornamenti relativi al sisma di Ischia abbiamo un pochino necessariamente riscombinato la nostra scaletta, che però manteniamo nella struttura generale che avevamo deciso di dare ieri pomeriggio. Il nostro obiettivo stamattina era di parlare intanto di come si proteggono le nostre città, come si protegge il nostro paese alla luce della naturalmente nuovo allarme terroristico che sta ricondizionando pesantemente un po' tutte le città d'Europa. Molte amministrazioni sono in questo momento allertate per capire come proteggere i propri centri storici, i luoghi dove i pedoni naturalmente animano particolarmente le città, e quindi ne parleremo questa mattina. Prima di presentarvi però tutti gli ospiti, vi presento subito quello che avevamo coinvolto per parlarci della situazione di Napoli. Necessariamente stamattina dobbiamo virare su un altro argomento, ci faremo raccontare anche come si sta riorganizzando Napoli proprio per aumentare la condizione di protezione antiterrorismo, se c'è preoccupazione in questa città, ma naturalmente la preoccupazione di queste ore è su tutt'altro argomento, per cui io ringrazio subito Raffaele Del Giudice, che è il vice sindaco di Milano. Buongiorno vice sindaco, eccoci a lei. Grazie, buongiorno a tutti quanti voi. Cosa può dirci rispetto ad Ischia? Intanto il comune si è allertato ovviamente da subito. Cosa sta succedendo, se ci può dare delle notizie proprio fresche di prima? Ma noi siamo innanzitutto, grazie per la possibilità di esprimere anche tutta la nostra solidarietà ovviamente in queste condizioni. Abbiamo allertato già dalle prime ore di ieri sera il servizio di protezione civile della città di Napoli, in modo da garantire la fluidificazione del traffico nell'area del porto, perché si prevedeva, come sta poi avvenendo, delle corse straordinarie di traghetti che riportano i turisti o cittadini che vogliono tornare in città. Quindi abbiamo individuato una prima logistica presso il porto, in modo da dare una mano anche con la nostra polizia locale. L'altra cosa, siamo in costante contatto con la sala operativa della Regione Campania della Protezione Civile, e poi insomma il resto della macchina si sta dispiegando già dalle prime ore, la macchina dei soccorsi, con le notizie che già avete dato prima in merito alla parte alta di Casamicciola. Ci racconta un po' le caratteristiche di questa zona. Vabbè, Ischia universalmente riconosciuta da tutti per il suo pregio turistico. Casamicciola, questi comuni colpiti, vice sindaco Del Giudice, anche dal punto di vista urbanistico, insomma, che caratteristiche hanno? Hanno delle caratteristiche di zone con livelli di sismicità, insomma, sono caratterizzate anche da attività vulcaniche, insomma, è una zona da sempre attenzionata. Tra l'altro è famoso il terremoto di Casamicciola, insomma viene anche annoverato come uno degli esempi più gravi, e sono delle aree che vanno costantemente monitorate, così come viene fatto dall'Istituto Nazionale di Geovulcanologia. Sono delle aree che hanno tra le loro caratteristiche questa alta probabilità di scosse sismiche. Sì, Vice Sindaco, le chiedo di rimanere ancora qualche istante con noi, perché ci ha raggiunto in studio la collega Cristina Carpinelli con altre notizie. Ha raggiunto i soccorritori, credo, di Ischia, qualcuno, quelli che si può riuscire a raggiungere in queste condizioni, in questo frangente così complicato. Cristina, quali sono le notizie degli ultimi istanti? Si sta continuando ovviamente a lavorare per estrarre dalle macerie i due bambini che da 10 ore sono intrappolati dopo la scossa di magnitudo 4, di 4 gradi della scala Richter, che, come dicevate voi, ha colpito Ischia ieri sera. Il crollo della loro palazzina è avvenuto proprio in zona Casamicciola. Poco fa i vigili del fuoco sono riusciti a passare due bottigliette d'acqua ai bambini, che hanno 3 e 5 anni. Sembra che questi due bambini si siano riusciti a salvare nascondendosi sotto il loro letto, che ha resistito al crollo. Ecco, come dicevi, noi abbiamo raggiunto proprio poco fa il comando dei vigili del fuoco, che ci ha raccontato come si sta procedendo. Sentiamo. C'era ancora un bambino che o uno o due bambini, due sono stati liberati, tutto a posto, quell'altro o quell'altri sono vivi e stanno vedendo come li devono prendere. Ed è il crollo di una casa, sono sotto, sì, il crollo. Sì, un crollo di una casa. Ma quanti sono stati i crolli effettivi? Sono 4 palazzine, 5. Sì. L'area dove stanno i bambini sotto e queste altre persone. Una persona è morta, che ha avuto un cornicione della chiesa che stava passando di là e ci è andato a finire addosso e è morto sul posto. So che stanno arrivando altri vigili da Napoli, di tutti i comandi della Campania, Salerno, Benevento, Avellino, Caserta, e stanno un altro vaporetto che stanno pieno di polizie, vigili del fuoco che stanno arrivando a Ischia. Ecco, poi sono due in realtà le vittime di questo terremoto, vittime dei crolli in realtà, 36 le persone ferite, e con le luci del giorno adesso è possibile accertare a quanto ammontano i danni. Come abbiamo detto, la zona più colpita è il borgo di Casamicciola, dove ci sono anche le terme, ma dove sembra ci siano anche molte palazzine abusive. Poco fa abbiamo sentito Francesco Peduto, che è presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, che è intervenuto anche in maniera molto netta proprio su questo tema. Sentiamo. 4.0, che tra l'altro per la verità significa una potenza quasi doppia, non dovrebbero esserci problemi, quindi questo la dice lunga sulla vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio per tanti motivi. Innanzitutto perché noi abbiamo un costruito storico che in altri paesi non c'è, e poi perché soprattutto in aree come quelle turistiche, ischitane, eccetera, è molto forte il problema relativo all'abusivismo edilizio. Con questo non voglio dire ovviamente che le case che sono crollate erano abusive, insomma, però è un fenomeno molto diffuso, per cui bisogna capire, diciamo così, poi quali sono state le reali cause perché quelle abitazioni sono crollate. Il problema è che semplicemente, che se ho capito bene, perché l'INGV ha rielaborato più volte i dati, è che diciamo l'epicentro del terremoto, che prima era stato localizzato in una zona a sud-ovest dell'isola, in realtà dovrebbe essere prossimo all'abitato di Casamicciola, ma anche su questo aspettiamo i dati definitivi prima di fare qualsiasi ipotesi o illazione. La presa di posizione dei geologi, anche la vostra appunto, del Consiglio Nazionale dei Geologi, è stata molto forte. Tra le varie dichiarazioni, quella che colpisce di più è quella che dice che il nostro è un paese fragile che non impara a fare prevenzione. Ecco, oggi cosa le viene da dire? Il problema dell'abusivismo, ripeto, in Campania è già un problema molto forte. Tra l'altro nel passato non c'è stato il coraggio di prendere posizioni nette su questo fenomeno. Ricordo discorsi filosofici fatti da qualche politico sull'abusivismo in quanto tale e sull'abusivismo di necessità. Io credo che sia l'ora di finirla su queste cose. Se a questo poi si fa una vera prevenzione, che è quello che noi abbiamo denunciato a un anno di distanza dal terremoto dell'Italia centrale, in cui in effetti nulla è cambiato, si è parlato di tante cose, ma di una reale informativa ai cittadini, di lezioni nelle scuole, di fascicolo del fabbricato, tante chiacchiere ma fondamentalmente nulla di concreto. Quindi se delle leggi rigide in riferimento all'abusivismo vengono affiancate da una reale informativa anche sui rischi che si corrono a mettere su delle case in poco più di 24 ore, insomma, per sfuggire al fenomeno dell'abusivismo, credo che qualche effetto lo possa ottenere. Ci fermiamo solo per qualche istante, c'è il traffico, poi torneremo, se è possibile, magari le lasciamo momentaneamente un po' da parte le polemiche sul tema dell'abusivismo, avremo tutto il tempo per farlo prossimamente. Sentiremo adesso anche un sismologo per raccontarci un po' le caratteristiche anche territoriali da un altro punto di vista, perché questo sisma colpisce questa zona, è sopra una faglia, l'isola di Ischia, che cosa succede lì, a tra poco. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Ma cos'è quest'estate? È un'estate in cui ci tocca di nuovo rifare un bilancio di un sisma che colpisce il nostro paese, naturalmente un bilancio ben diverso rispetto a quello che ha colpito il nostro paese un anno fa, che pure raccontavamo da questo stesso programma, ma lo stesso tanto basta. A ridestare un nuovo allarme è con me Cristina Carpinelli. Questa mattina abbiamo raggiunto anche un sismologo dell'Università di Camerino, Emanuele Tondi. Cristina, abbiamo intanto degli aggiornamenti. Vedo da altri schermi che è stato l'ospedale che era stato evacuato, i Rizzoli, credo, è tornato alla normalità. Sì, stanno lentamente ritornando alla normalità. Molte cose appunto che erano state in qualche modo fermate temporaneamente nella notte a Ischia. Sappiamo che molti turisti tra l'altro stanno andando via dall'isola, ma la cosa che in questo momento stiamo seguendo è il salvataggio di questi due bambini di 3 e 5 anni che sono di fatto gli ultimi dispersi di questo terremoto. Sappiamo che sono stati raggiunti, quindi i vigili del fuoco hanno potuto vedere che stanno bene, gli hanno passato dell'acqua, stanno cercando di tirarli fuori, come hanno tirato fuori in mattinata il fratellino di 7 mesi, mattinata proprio alle prime luci dell'alba, quindi è su questo che ci stiamo focalizzando. D'altro canto stiamo cercando anche di capire che tipo di scossa è stata e appunto se i danni appunto possono essere in qualche modo definiti normali, ecco, per data l'entità del sisma, questo 4.0 che peraltro è stata ricorretta al rialzo nel corso delle ultime ore perché si pensava ad una scossa di una entità leggermente inferiore. Emanuele Tondi, sismologo dell'Università di Camerino, buongiorno e grazie per la sua disponibilità. Buongiorno. Buongiorno. Che caratteristiche ha questa scossa che ha toccato Ischia? Su che zona poggia questa bellissima isola del nostro mare? Beh, Ischia è un'isola vulcanica, quindi quella è un'area vulcanica e questo terremoto si può inquadrare anche nell'attività appunto delle camere magmatiche che si trovano al di sotto di Ischia. Stavo ripensando a quello che dicevamo prima con Cristina Carpinelli, l'entità della scossa, che mi sembra di ricordare anche rammentando quello che commentavamo lo scorso anno rispetto al terremoto appunto che ha colpito Amatrice, Accumoli e tutte le altre zone, che comunque è una scossa di entità non tale da provocare danni particolarmente rilevanti. Cosa può dirci rispetto a questo? Non c'entra nulla se il territorio che coglie la scossa non ha le caratteristiche tali da poter proteggere l'area da appunto danni importanti? Tondi? Ma guarda, intanto facciamo un po' di chiarezza sulla magnitudo, perché si è detto che è stata prevista al rialzo, in realtà non è così. Si usano diversi metodi per calcolare la magnitudo. La prima, la più veloce, è la magnitudo locale, e la magnitudo locale è 3.6. Poi è stata calcolata, viene più dato la magnitudo durata, che è un altro metodo che forse si avvicinava di più ai valori un po' più alti e quindi dava un'idea di avere un terremoto un po' più forte che la magnitudo durata, in questo caso è 4, ma è disponibile, dopo 10 minuti era disponibile già la magnitudo momento, che è quella che è usata a livello internazionale, e il terremoto è di magnitudo 4.1. Quindi sono solo metodi diversi di calcolo della magnitudo, ma non rivisitazioni del valore. Ma sono scosse che possono provocare danni di quel tipo, tondi, dipende allora, ovviamente dalle costruzioni che subiscono questa situazione? Questo sicuramente, le costruzioni evidentemente sono estremamente vulnerabili. Poi in area vulcanica generalmente i terremoti sono poco profondi, quindi probabilmente è meno profondo il terremoto, quindi profondità di 4-5 km sono diverse rispetto a profondità di 10, quindi si sente molto di più. In più Casamicciola probabilmente ha anche un effetto di sito legato alla topografia dell'area. Come effetto di questa. Certo, c'è Cristina che sta monitorando, la mia collega, le agenzie. Preoccupazioni per sciami sismici ce ne sono? Non so, è stato detto qualcosa, Cristina, a questo proposito, in modo che possiamo fare magari una domanda a Tondi su questo? Se non sbaglio, Tondi, so che ci sono state diverse appunto piccole scosse di assestamento, giusto, nella notte e soprattutto adesso sembra che la situazione sia tutto sommato tranquilla. Le persone che ho sentito, io appunto sentendo le persone mi hanno tutte confermato che la notte è andata via in maniera tranquilla, non ci sono stati grossi altri momenti di... Beh sì, dopo un terremoto di magnitudo 4 le repliche sono necessariamente più piccole, quindi è già piccolo il magnitudo 4. Sì. E solo, ecco, bisogna tenere presente che a Ischia c'è stato un terremoto nel passato che fece migliaia di morti il 28 luglio del 1883, quindi è comunque un'area che può generare terremoti, magari non molto forti, ma ecco, superficiali, e determinare appunto, a causa degli effetti di sito, determinare diversi crolli. Quindi è chiaro, un'area a pericolosità sismica media, gli edifici devono essere idonei, altrimenti succede quello che abbiamo visto. Bene, io ringrazierei Emanuele Tondi, sismologo dell'Università di Camerino, per essere stato con noi per commentare quello che sappiamo fino a questo momento del sisma che ha colpito Ischia. Cristina, per ora c'è dell'altro? Sì, no, ricapitolando, di fatto ci sono due vittime di questo terremoto, almeno 6 palazzine crollate, questi due bambini che stanno cercando appunto di essere estratti dalle macerie, e soprattutto ci sono più di 1000 turisti che stanno fuggendo. Esatto, i fuggi dei turisti, quindi possiamo anche immaginare, perché non è che i traghetti siano lì immediatamente disponibili per tutti, quindi c'è a questo punto un via vai straordinario anche di mezzi che dovranno trasportare necessariamente da una parte i turisti che vogliono tornare verso la costa e dall'altra parte i soccorritori che stanno arrivando. Brava, quindi... infatti questo triste scambio appunto di persone su Ischia. Allora devo andare in pubblicità adesso, mi auguro che Raffaele Del Giudice, vice sindaco di Milano, sia rimasto ancora con noi, perché vorrei commentare con lui anche le iniziative che hanno preso per la protezione antiterrorismo, ieri riunione straordinaria a Napoli come in altre città italiane. A tra poco. Ma cos'è quest'estate? Sì, me lo stanno segnalando anche alcuni ascoltatori, per ben due volte, non una, ho detto Raffaele Del Giudice, vice sindaco di Milano e non di Napoli, invece a Napoli, anche se Del Giudice forse le piacerebbe stare a Milano in queste ore, magari sarebbe un po' più tranquillo. Noi poi dopo sentiremo un assessore di Milano per un altro argomento. Del Giudice ancora magari un paio di minuti con noi, se ce lo consente, per commentare se vuole anche quello che hanno detto gli altri esperti di prima: una magnitudo di questa entità non dovrebbe provocare danni di questo tipo, se non fosse per la qualità delle costruzioni che sono sopra una determinata area. Qua c'è già subito innescata, partita immediatamente, la questione dell'abusivismo edilizio. Vuole commentare quello che sentivamo prima? Ma sì, a parte concordare su molte cose, insomma, ormai è arrivato il momento davvero di fare un po' il quadro generale del nostro patrimonio immobiliare, insomma, di come sono state costruite le città. E questo è importante nel cercare di aumentare la resilienza delle abitazioni e del tessuto urbano. Questo ormai è inderogabile, compreso ovviamente le necessarie risorse per fare questo, perché se ne parla da anni, ma poi puntualmente i comuni vengono lasciati soli, ma questo sarà altro argomento. Mi interessava molto ringraziare i Vigili del Fuoco, perché voglio ricordare che vengono fuori da un periodo terribile per lo spegnimento dei roghi e non si sono risparmiati, molte squadre sono tornate indietro e stanno lì a Ischia, la macchina sanitaria anche se messa in moto, il nostro ospedale Cardarelli ha già predisposto col suo direttore generale i reparti per accogliere eventuali feriti, insomma voglio dire questa è la parte poi che va sottolineata anche per recuperare un po' di fiducia e di forza per andare avanti, perché dobbiamo sperare tutti, insomma, ormai ci dovremmo essere per i due bambini che sono lì. Resta il tema dello studio dei nostri territori, finanziare la ricerca anche per nuove tipologie di costruzioni. Nel nostro paese si investe pochissimo in ricerca, quindi io sono contento quando si fanno le analisi, però puntualmente i soldi per la cura non c'è. Ebbè, è arrivato il momento di fare, come dire, tutti senza polemica, però un momento proprio di pragmatismo. Come quello che peraltro avete adottato in queste ore, come dire, aumentando anche le condizioni di protezione antiterrorismo su Napoli. Anche a Napoli si è lavorato nelle ultime ore, con questo le chiedo di aiutarmi, Vice Sindaco, a passare anche all'altro argomento che avevamo in programma di affrontare. Anche per voi una condizione, insomma, di aumentata allerta dopo i fatti di Barcellona, visto che anche su Napoli il flusso di turismo in queste settimane è elevato. Quindi bisogna proteggere al massimo la città, non solo per i turisti ma anche per i cittadini. Proprio ieri avete ordinato una simulazione di emergenza. Che cosa avete fatto esattamente ieri, Vice Sindaco? Ma noi siamo impegnati con il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, con il Prefetto, il Questore, i Carabinieri, Guardia di Finanza e Esercito. In questi comitati, ovviamente con la presenza del sindaco, della nostra polizia locale, insomma, vi è questa filiera istituzionale che sta cercando di mettere in piedi dei sistemi, ovviamente con quelle che sono le linee guida che ci vengono dal Ministero degli Interni, le linee guida che ci vengono anche dalla Questura e dalla Prefettura, cercare di dividere la città in dei quadranti, così un po' come avviene nelle altre città, e in questi quadranti analizzare i flussi sia pedonali sia di presenze e di stabilire o attività di protezione fissa o quelle mobili che sono consuete di un piano che è stato rafforzato in queste ore a cura delle forze dell'ordine con la partecipazione dell'esercito. Vice Sindaco, noi abbiamo individuato alcune di queste zone, stiamo posizionando delle fioriere e dopodiché facciamo una serie di prove anche di passaggio dei cosiddetti mezzi di servizio, questo per evitare, diciamo, che si possano poi limitare le capacità della città di vivere, le capacità della città di erogare i servizi, insomma, in modo tale che nelle simulazioni noi verifichiamo anche nelle azioni in cui questi dispositivi possono interferire con il passaggio di un camion per l'annettezza urbana, il passaggio di vigili del fuoco, il passaggio di un autobus. Tutto questo noi lo facciamo in maniera, una sorta di stress test, insomma, immediato, tale da poter affrontare gli accorgimenti e i correttivi in loco sul posto, circolarizzando tutte le informazioni. Vice Sindaco, grazie per essere stato con noi, la lasciamo nella gestione dell'emergenza di stamattina. Raffaele Del Giudice, lo ribadisco, Vice Sindaco di Napoli, ho detto per due volte Milano, prima me ne scuso, ma una mattinata un po' di cambiamenti anche per noi. In bocca al lupo per tutto, per il fronte incendi, per le nuove protezioni antiterrorismo e soprattutto adesso per tutto ciò che sta succedendo ad Ischia. Grazie ancora, e noi, appunto, come vi dicevo, con questa domanda che ho fatto al Vice Sindaco di Napoli, avevo provato ad introdurre il tema più importante che volevamo affrontare questa mattina, il primo tema che volevamo affrontare questa mattina, e cioè il tema della riorganizzazione delle città italiane che vogliono proteggersi, preoccupate chiaramente dopo i fatti delle Ramblas di Barcellona. Nessun paese può sentirsi al riparo, ha detto a Rimini, al meeting di Rimini, il premier Paolo Gentiloni. Gli italiani però continueranno a vivere liberi. Nel frattempo il Ministero dell'Interno, come abbiamo raccontato anche nei nostri giornali radio, ha diramato una circolare con la convocazione di tutti i comitati provinciali di ordine e sicurezza per studiare un'eventuale implementazione delle misure di sicurezza che saranno prese in considerazione, appunto, dopo i necessari sopralluoghi di verifica nelle città italiane di eventuali situazioni di vulnerabilità. Traduzione, ecco, le barriere antiterrorismo che potrebbero diventare la soluzione per provare a proteggere di più i nostri centri. Si è intanto anche attivato subito un dibattito dibattito sulle caratteristiche urbanistiche delle nostre città, in particolare i grandi centri a forte richiamo turistico e molto affollate non solo d'estate ma in ogni momento dell'anno, quelle che sono caratterizzate da viabilità pedonale fatta di lunghi corsi costeggiati da negozi, attività di ristorazione, bar dove il passeggio è alto. I capoluoghi di regione sono sempre tutti affollatissimi nel nostro paese. È un dibattito che ha visto scendere in campo anche architetti di richiamo a cui è stato chiesto un parere sulle soluzioni idonee a proteggere i centri delle nostre città. Ci sono state tante idee, la stampa ne ha raccontate diverse in questi giorni, ma insomma queste città sono pronte ad accogliere tutti questi cambiamenti. Noi ne parleremo tra poco con Marco Carminati, collega del Sole 24 Ore, responsabile delle pagine di arte, architettura, design e beni culturali dell'inserto domenica del Sole 24 Ore. Ma ci interessa anche capire cosa cambia per l'Italia dopo Barcellona in termini di incolumità. Cosa cambia per il nostro paese? Abbiamo di nuovo chiesto il parere a Paolo Magri dell'ISPI, l'Istituto degli Studi di Politica Internazionale. Magri, buongiorno, ben ritrovato, perché ormai scomodato quasi tutti i giorni da Radio 24, eccoci a noi, buongiorno. Scomodato no, buongiorno a tutti. Cosa cambia dunque per l'Italia dopo Barcellona? Servono i dissuasori del traffico per essere più tranquilli? Ieri, come ricordavo giustamente, c'è stato una euforia su anche le modalità per creare i dissuasori dal melograno alla piscina. Ecco, al di là adesso di queste bizzarrie di agosto, è chiaro che quanto è successo a Barcellona ha aggiunto elementi di preoccupazione a una preoccupazione che c'era. Ha aggiunto elementi di preoccupazione perché pensavamo che la Spagna fosse risparmiata per le stesse motivazioni per cui pensavamo e crediamo e speriamo continua ad essere risparmiata l'Italia. Poche comunità radicalizzate, più piccoli gruppi di seconda generazione, una buona integrazione tutto sommato, pochi foreign fighters che sono il simbolo della radicalizzazione, sono il punto di attenzione, una buona tradizione storica all'antiterrorismo per l'ETA in Spagna, per le Brigate Rosse da noi, e quindi tutti questi fattori per la Spagna e per l'Italia ci facevano dire, per i due paesi, che eravamo quasi immuni, nessuno aveva il coraggio di dirlo ovviamente, ma la speranza era quella. L'attentato in Spagna cambia un po' tutto, perché se viene colpita la Spagna, perché non può, e la Finlandia il giorno dopo, perché non può essere colpita l'Italia. E qui c'è il dibattito allora sui luoghi pubblici, sui dissuasori, che sono sicuramente utili per evitare le goffaggini più clamorose. Ma dobbiamo essere estremamente realisti che l'idea di bloccare tutti i luoghi di passeggio italiano con dei dissuasori è altrettanto sicuramente impossibile. Innanzitutto pensiamo al caso del Rambla, facciamo un esempio molto concreto. Quella, le Rambla, la conosciamo tutti, è una via di circolazione dei mezzi, nei due sensi. Mettere dissuasori vuol dire chiudere al traffico quella zona. È diverso dalle aree pedonali, dove significa semplicemente chiudere l'accesso. Ecco, chiudere l'area delle zone Rambla o altre zone in Italia è un'operazione difficilissima. Pensiamo a quanto i sindaci faticano per rendere zone pedonali alcune parti della città, parti del centro. Sono le esigenze dei pompieri, di chi deve fare dei servizi pubblici, le esigenze dei commercianti, eccetera. Quindi è corretto pensare a delle forme di protezione sugli aspetti più clamorosi, ma sicuramente non possiamo proteggere tutta l'Italia e tutti i luoghi con queste modalità. Infatti, detto questo, naturalmente poi la sensibilità delle amministrazioni si eleva necessariamente in questi frangenti e ci si rende conto che la vulnerabilità è altissima, non bastano l'antiterrorismo, l'intelligence, le forze dell'ordine appunto a tutti gli angoli, bisogna fare qualcosa di più anche a costo di appunto un po', se vogliamo, deturpare anche le bellezze dei nostri centri storici tanto praticate appunto dai solo cittadini, dai turisti lo stesso, che amano moltissimo appunto il nostro paese. Un altro tema che è ripartito è stato quello, Magri, sulle moschee da presidiare, no? Un po' di più, ma mai toccate negli ultimi attentati. Sì, ecco, anche qui dobbiamo tutti stare attenti su questa serie di attentati che giustamente attira l'attenzione di noi che commentiamo e di voi che analisi per il pubblico, a non esasperare le notizie, il singolo fatto che si verifica. Nel senso, in queste giorni, oltre al dibattito sui milograni, è partito il dibattito sulle moschee, moschee ruoli di radicalizzazione, le moschee finanziate dal Qatar, dal Kuwait, dall'Arabia Saudita, eccetera. Tutte cose che sapevamo, ma così come sappiamo già da tempo che non sono le moschee il ruolo dove pochi, ricordiamo, pochi pazzi, fanatici, radicalizzati che hanno compiuto attentati in Europa fino adesso si sono radicalizzati. Ne abbiamo una fattispecie di 25-30 attentati, una sessantina di persone coinvolte, 60 persone, gli attentatori, e i tre quarti di questi attentatori non si sono radicalizzati in moschee, si sono radicalizzati sui siti web o in carcere. In carcere, chiusi in qualche carcere, in Italia, in Spagna, in Belgio, eccetera, dove sono entrati in contatto nell'ambiente chiuso del carcere con attentatori degli anni precedenti, persone radicalizzate, in quel clima complesso psicologicamente del carcere si sono appunto radicalizzati. In questo caso, unico ad ora di Barcellona, c'è un ruolo di un imam che è morto, è esploso con l'insieme alle 120 bombole. È certamente un tema da affrontare, oltretutto abbiamo scoperto che era conosciuto, era stato in Belgio, eccetera, eccetera, eccetera, ma da qui a riaprire un dibattito sulle moschee, un luogo di radicalizzazione, dobbiamo essere cauti, anche perché riaprire un dibattito sulle moschee riapre in ogni paese il dibattito sulla libertà di religione, sull'accettazione o meno delle città delle moschee. Sì, un domino che non finisce più, si attiva. Quello che è il tema centrale che avremo di fronte nei prossimi anni. Cioè, vediamo sicuramente un terrorismo che viene dal mondo islamico. In Europa ci sono 50 milioni di islamici, 16 solo in Unione Europea, 50 di questi hanno compiuto attentati. Allora, vanno distrutti, colpiti, annientati, ma da lì a passare a un concetto, ed è difficile da dire in questo momento, non so che molte persone che ci ascoltano hanno atteggiamenti duri su questo tema, ma da lì a criminalizzare l'intera comunità islamica per queste 50 persone, ecco, se cominciamo a criminalizzare di nuovo anche le moschee viste come luoghi, cioè Milano ha una tradizione in questo, come ruolo di radicalizzazione, come il tempio di Al-Qaeda, non ci aiuta sicuramente. E siccome abbiamo bisogno di essere freddi e lucidi in questa battaglia che dobbiamo compiere, cerchiamo di essere focalizzati. Grazie a Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e direttore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che sicuramente torneremo a sentire anche nei prossimi giorni se ci saranno novità per questa nuova lotta al terrorismo che implementa un po' le sue forze, e nonostante anche le rassicurazioni che sono arrivate dopo la cattura e l'uccisione del marocchino Younes Abdou-Yacoub, scusate la pronuncia ma naturalmente io non sono come dire proprio esattamente esperta in questi argomenti. Come sapete, appunto, dopo la colossale caccia all'uomo, le forze di polizia spagnole hanno rintracciato e ucciso l'ultimo terrorista ancora in circolazione della cellula che giovedì pomeriggio con un van ha compiuto la strage sulle Ramblas di Barcellona. Appunto, nonostante la cellula, come dicevamo, sia stata sgominata, in ogni caso appunto c'è comunque ancora grandissima preoccupazione ovunque. Detto questo, avete sentito che Magri richiamava così con un po' di ironia anche la questione del dibattito sui melograni. Perché ha espresso questo concetto, per chi se lo fosse perso? Perché, come dicevamo prima, si è attivato questo dibattito sulle caratteristiche urbanistiche delle nostre città e su quello che bisognerebbe fare anche per proteggerle di più. Sono stati chiamati a dire la loro molti architetti di grido, e c'è stata questa proposta dell'arcinoto Stefano Boeri, che ha detto sarebbero al terrorismo bisogna rispondere con più verde, non con più cemento, quindi querce e melograni come uno scudo. Allora, Marco Carminati, Il Sole 24 Ore, anche conduttore su Radio 24 di Luoghi d'Arte, è un po' come siamo tutti commissari tecnici della Nazionale, in queste ore siamo un po' tutti architetti e geometri con la soluzione in tasca. Che idee ti ha suggerito questo originale dibattito che si è scatenato in queste ore? Buongiorno a tutti. Intanto, è proprio un dibattito balneare da un certo punto di vista. Quando si ha molto tempo a disposizione si possono fare tante considerazioni. Il tema di trasformare la sicurezza in bellezza è un tema antichissimo, per la verità, non è un problema dei nostri giorni, tant'è vero che in passato lo risorsero in modo talmente brillante che oggi noi andiamo a vedere questi dissuasori, cioè circondarono le città da mura altissime, da bastioni colossali, rendendo la vita delle città appunto rinchiusa all'interno di queste cerchie murarie. E noi oggi appunto benediciamo quei sindaci, quegli assessori che alla fine dell'Ottocento resistessero al movimento di distruzione delle mura, perché le mura delle città, in particolare in Italia, erano viste come degli ostacoli enormi allo sviluppo, alla libertà, e quindi Lucca, per esempio, le ha mantenute, Bergamo ha mantenuto questi colossali bastioni che noi appunto oggi sfruttiamo come delle attrazioni turistiche. Tra l'altro sia Lucca che Bergamo hanno costruito delle mura che non sono mai servite a niente, non c'è mai stato un assalto, non c'è mai stato bisogno di quelle mura. Quindi è un tema che ha preoccupato davvero da tanti secoli chi era responsabile delle città e del governo. Oggi il tema dell'arredo urbano fa un po' sorridere, perché diciamo che noi tendenzialmente avvertiamo, vivendo nelle grandi città, che l'arredo urbano non è un granché in generale, cioè noi siamo davanti a delle illuminazioni notturne agghiaccianti. Parliamo di Milano, il Castello Sforzesco è illuminato da anni in un modo abominevole a mio giudizio, ma non credo solo a mio giudizio, così come sono brutti i lampioni, sono certe volte abbiamo delle panchine da masochisti, abbiamo brutti impianti di illuminazione in generale, abbiamo brutti in segnaletica, insomma ci sono tantissimi problemi, per non parlare del problema dei cassonetti, della differenziata, che in alcune città è abbastanza drammatico. Vabbè, a noi ci va anche bene, dai, se dobbiamo riscomodare la situazione di Roma, Marco, cioè siamo anche in una condizione super fortunata. Detto questo, quindi, certo, come ovunque, i margini di miglioramento sono sempre molto ampi, ma insomma ci sono certi ambiti di Milano che a te proprio non soddisfano. Guarda che ho l'assessore alla sicurezza del comune. Ma credo che non piace nemmeno a lui l'illuminazione del castello. Quindi detto questo, cioè è un tema quotidiano quello dell'arredo urbano, che la presenza, per esempio, insistere con la presenza del verde non deve essere una cosa legata a questa emergenza terribile, ma deve essere una politica, perché noi sappiamo perfettamente che dove ci sono tre piante si vive fisicamente. Detto questo, siamo in emergenza, quindi questi disposori, tutto quello che si sta mettendo in campo è frutto di una emergenza purtroppo drammatica, quindi tutto quello che si può fare subito, anche se si tratta di oggetti terribilmente impattanti. Ma d'altronde nell'emergenza abbiamo visto le stesse opere d'arte. Milano è stata completamente ricoperta di sacchetti di sabbia dal 40 al 45, il Cenacolo è stato occultato da un'enorme marea di sacchetti di sabbia. Grazie a queste terribili, esteticamente terribili soluzioni, una parte del nostro patrimonio si è salvato. Quindi noi siamo davanti a delle emergenze, e quindi discutere su come debbano essere realizzati questi disagori mi sembra abbastanza singolare, anche perché si spera che non servano a lungo, che non debbano essere delle mura secolari. Vabbè, e poi chi lo dice che non debbano rimanere tali in realtà? E poi mettiamoci anche un'altra questione, va bene, proteggiamo i centri dall'eventuale ingresso aggressivo di van, camioncini o che altro, ma se questi qua vogliono colpire le modalità le trovano, non è che si lasciano certamente scoraggiare da delle barriere di fiori o di altro materiale. Aspetta lì Marco, stiamo andando verso la chiusura, ma abbiamo anche Carmela Rozza, assessora alla sicurezza del comune di Milano, perché proprio ieri anche a Milano c'è stata una riunione tecnica per decidere come e dove mettere nuovi dissuasori nelle principali aree appunto milanesi, da Corso Buenos Aires a Corso Vercelli, alle colonne di San Lorenzo e non solo. Assessore Rozza, buongiorno. Buongiorno a voi. Che novità buongiorno abbiamo da raccontare ai nostri ascoltatori? Diciamo che noi, oltre ad aver chiuso la galleria con i New Jersey già fin dal giorno dopo l'attentato di Barcellona, adesso stiamo guardando tutte le aree della Movida o dei corsi affollati. Avevamo già a dicembre posto delle dissuasori e dei New Jersey anche in zone d'Arsena e zona Gaia Aulenti, diciamo che sono delle zone molto gettonate della Movida milanese, ma nell'analisi che si sta facendo in questi giorni stiamo rafforzando le aree di protezione, anche quelle a traffico, mettendo i New Jersey magari in modo spalzato per non bloccare le attività economiche comunque della città. perché le attività economiche hanno bisogno di forniture. Il Viminale ha detto ai comuni di blindarsi ma senza cadere nella militarizzazione, perché poi chiaramente... Il tema qual è? Che vogliamo appunto evitare di avere troppi, di mettere militari, troppe camionette in giro, e dall'altra parte garantire sicurezza nei limiti delle possibilità che ognuno di noi, ogni amministrazione ha, assieme alle altre forze dell'ordine, e serenità ai cittadini che comunque devono e dobbiamo, per non far vincere il terrorismo, continuare a fare la nostra vita normale, continuare a vivere i nostri divertimenti e quant'altro. È un momento difficile a cui dobbiamo saper far fronte. Certo. Senta, Assessore Rozza, a Roma anche gli autonoleggi sono stati allertati e sono state date delle direttive di cautela con chi chiede un furgone in affitto. Ma questi sono elementi che generalizzati, dettati dalla circolare ministeriale, quindi tutte gli autonoleggi sono stati allertati, come tutti gli alberghi sono stati. È stato chiesto a tutti gli alberghi di comunicare la presenza dei propri ospiti in tempo reale, cioè normalmente si faceva nell'arco di 24 ore e adesso è stato richiesto la comunicazione alla questura degli ospiti degli alberghi in tempo reale. Questo serve quantomeno a monitorare e poter essere avvertiti di elementi magari strani o distorsivi, e abbinati all'attività di controllo del territorio, che comunque è il sistema principe che noi della tutela e della sicurezza, perché conoscere ciò che avviene nelle proprie città è sicuramente un elemento fondante per individuare situazioni distorsive. Benissimo, quindi, sì, lascio concludere, Assessore. No, niente, dicevo, quindi il lavoro che noi stiamo facendo è a 360 gradi. Tra l'altro, proprio dal mese di luglio la Polizia Locale di Milano ha rimesso in pista il vigile di quartiere in una formula nuova, all'interno della quale l'elemento principale è conoscere il territorio dove si pattuglia, avere relazioni con le persone, conoscere tutto ciò che avviene nel quartiere, perché questo, specie in alcuni quartieri periferici, è un elemento importante di tutela di rassicurazione ulteriore. Grazie a Carmela Rozza, assessore alla sicurezza del Comune di Milano. Ringrazio anche Marco Carminati, collega del Sole 24 Ore, inserto Domenica del Sole, conduttore su Radio 24 di Luoghi d'Arte. Noi ci dobbiamo fermare, dobbiamo ridare la linea al giornale radio, sentiremo le notizie che arrivano da Ischia, isola colpita dal sisma della notte. A tra pochissimo. Dalla più grande cacciatrice di fossili all'uomo che voleva andare su Marte, dal profeta della rivoluzione sessuale all'uomo che provò il Big Bang. Cinque storie di scienziati che hanno cambiato la nostra visione del mondo. E noi vi racconteremo e vi suoneremo le loro storie. Tutto questo a Sound of Science, le idee della scienza con le parole della musica. The Sound of Science, il suono della scienza, di Maurizio Melis e Giulia Torino. La domenica alle 15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Ma cos'è quest'estate? Chinatown, brulicante di negozi tipici tecnologici. Vieni insieme a me a ballare sulle note di Shanghai e la disco Deng. Vabbè, il solito Elio e le storie tese che ci dà sempre materia per arricchire con la colonna sonora appunto le nostre trasmissioni. Non parliamo solo delle Chinatown d'Italia, parliamo in particolar modo del rinnovato interesse di investitori cinesi in aziende importanti del nostro paese, anche se quella sulla quale si muove l'interesse negli ultimi giorni è ormai forse non più completamente italiana, come sapete, perché parliamo di Fiat Chrysler. Allora, anche se c'è ancora il consueto gioco di ruoli tra chi conferma e smentisce e sostiene che le trattative in realtà non sarebbero partite, ma ci sono solamente solo indiscrezioni, è stata in realtà invece confermata, perché l'avrebbe fatto lo stesso presidente del gruppo interessato, Great Wall, gruppo specializzato nei SUV, appunto a confermare di guardare con attenzione a Jeep. Addirittura il presidente di questa azienda cinese avrebbe preso carta e penna, anzi sarebbe più corretto dire il personal computer, e ha direttamente inviato una mail alla più grande e prestigiosa rivista di settore Automotive News e ha scritto che il gruppo che presiede, il gruppo asiatico, ha intenzione di acquistare Jeep e sarebbero stati avviati contatti con Fiat Chrysler per intavolare un negoziato. Sergio Marchionne continua a preferire a non commentare la notizia. Anche se, come è noto, perché anche di questo parliamo ormai da molte settimane, il gruppo automobilistico è alla ricerca di un partner che ne possa incrementare il perimetro per poter mantenere una marginalità rilevante, dato il contesto in cui vive, che è diventato fortemente competitivo. Però il tema è capire se Fiat voglia rinunciare a questo asset chiave per il futuro. Allora, cinesi in Italia. I cinesi in Italia ci sono non solo, come dicevamo, nelle Chinatown, ma ormai da anni i capitali cinesi hanno cominciato a riversarsi in tutto il vecchio continente, guardando anche con molto interesse negli ultimi 3 o 4 anni al nostro paese. Adesso io non so se questo bilancio è aggiornato, fra un po' vi presento l'ospite che probabilmente ne sa qualche cosa in più, ma gli investimenti cinesi su società italiane potrebbero aver raggiunto già circa 18 miliardi di euro, una cifra che fa della penisola, della nostra penisola, il secondo paese europeo per dimensione di spesa dopo la Gran Bretagna e davanti alla Francia. Il settore più ricercato, frequentato, è quello dell'energia, delle infrastrutture. I cinesi hanno piazzato appunto partecipazione di circa il 2% su Enel, Eni, sulla holding Cassa Depositi e Prestiti Reti. E poi sono intervenuti su Ansaldo Energia, sono intervenuti anche sulle banche italiane qualche anno fa, insomma molto fermento che io vorrei commentare questa mattina col professor Giuliano Noci, professore ordinario di marketing al Politecnico di Milano, è prorettore del polo territoriale cinese, delegato del rettore per la Federazione Russa, amministratore delegato di Polimilano Educational Consulting, che è una società che è stata appositamente creata dall'Ateneo Milanese per realizzare progetti di formazione e trasferimento tecnologico in Cina. Praticamente, professor Noci, la Cina da un bel po' di tempo è la sua seconda casa. Buongiorno. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Sì, è la mia seconda casa e devo dire che respiro da 2 anni ormai questo enorme interesse nuovo, in realtà, dei cinesi per l'Italia. È un interesse che trova la sua legittima spiegazione nella capacità che i cinesi riconoscono all'Italia di produrre innovazione e che si è concretizzata negli investimenti che le diceva. Vorrei però ricordare 2 altre operazioni estremamente rilevanti, quella di Pirelli ChemChina, sì, e peraltro Pirelli che verrà quotata in questi giorni, con un grande rispetto dell'italianità da parte dei cinesi, e proprio ieri Permstilisa che è passata di mano ed è andata in mano a Grandstand, un altro gruppo cinese che ha deciso di investire in Italia, riconoscendo all'Italia grande capacità di sviluppo, di innovazione. Allora, lei ha ricordato anche altre 2 grandi operazioni e invece molti ci soffermiamo, l'ho fatto anch'io questa mattina, in particolar modo invece sull'operazione eventuale su Fiat Chrysler. Ci sono pesi diversi e misure diverse a seconda della società alla quale presumibilmente gli investitori cinesi guardano? Professor Noci, ho solo così un mio commento, adesso estemporaneo, che non ha senso. No, io quello che credo è che i cinesi ovviamente nell'automotive hanno voglia di fare un'operazione importante all'estero, hanno voglia e hanno bisogno di fare un'operazione importante all'estero per conquistare mercati su cui oggettivamente oggi non sono presenti. Il gruppo FCA è il gruppo, come ho scritto anche la settimana scorsa sul suo 24 ore, di gran lunga più interessante, perché ha una dimensione rilevante, è tra i primi gruppi al mondo, anche se non è tra i primissimi, è quindi più contendibile e ha, come lei diceva poc'anzi, la parte sulla Jeep, che è sicuramente un elemento che ad esempio per Great Wall interessa molto, ma non è solo la Jeep in verità, quindi è un'operazione che i cinesi vogliono probabilmente fare in relazione alla necessità di conquistare mercati stranieri e di avere capacità produttiva all'estero. Ricordo i nostri radioascoltatori che Volvo è già stato oggetto di un'importante acquisizione qualche anno fa da un altro gruppo privato Geely, Volvo, che è rimasta preservata nei suoi valori identitari e nei suoi insediamenti produttivi. Mm. Questa lunga marcia alla conquista dei gioielli più preziosi d'Europa e Stati Uniti, professor Noci, però è stata in qualche maniera anche messa sotto osservazione da parte dello stesso governo cinese, che proprio di recente ha predisposto una nuova regolamentazione per gli investimenti all'estero. Perché da parte cinese c'è invece questa preoccupazione rispetto all'interesse che gli investitori di casa loro hanno appunto per corporate internazionali? Ma noi dobbiamo considerare le specificità della Cina. Cioè, la settimana scorsa il governo cinese ha varato un regolamento che impedisce investimenti in alcuni settori, tipicamente quello dell'intrattenimento è stato uno di quelli più oggetto d'attenzione. Si colpisce questo atteggiamento molto etico anche adottato dal profilo degli investimenti, che poi magari potremmo anche commentare, no? A fronte di certe abitudini consolidate in Cina che non sono proprio democratiche, tanto etiche, ecco, qua invece vietano gli investimenti in tecnologie militari, nel gioco d'azzardo, nell'industria del sesso. Quindi colpisce anche questo, professor Noci. Loro hanno in questo momento evidentemente un'economia in cui Pechino decide tutto e in cui si orientano le priorità. Si è valutato che tutta una serie di operazioni sono state operazioni fatte prevalentemente da privati e di natura razionale. Pensiamo agli acquisti rilevantissimi fatti da Wanda Group in tutta l'industria di Hollywood, ma non solo, pensiamo agli acquisti fatti nelle società calcistiche. Di converso però c'è una sorta di yin e yang, di schizofrenia, ma è pienamente comprensibile in Cina. Cioè, nel momento in cui vengono limitati investimenti in alcuni ambiti settoriali, vengono fortemente incoraggiati in altri ambiti. Il piano Made in China 2025, che è è il grande piano di sviluppo industriale della Cina, che vuol portare la Cina in alcuni settori ad essere leader al mondo, vede nell'automotive uno dei 10 settori in cui ci sono degli incentivi a fare operazioni estere. Bene, è in questa chiave che io vedo plausibile un interesse cinese verso FCA. È tutto da verificare che poi Great Wall, che ha dimensioni certamente non straordinarie, sia poi il fidanzato che può aspirare a sposarsi con FCA. Secondo lei ritireremo fuori la battaglia in qualche maniera a difesa dell'italianità, oppure non ha nessun senso alla luce dell'operazione possibile su Fiat Chrysler? Guardi, due considerazioni a questo riguardo. In primo luogo, FCA ormai italiana, non ha senso, sì, esatto, sì, esatto. Già l'abbiamo. Secondo elemento, comunque, ammettendo che sia un gruppo italiano, devo dire che i cinesi, a mio modesto avviso, ancor più degli italiani, tutelano l'italianità. Sono molto consapevoli del valore che l'italianità e la conoscenza italiana ha. Ci sono già esempi che dimostrano questo. Penso a Pirelli. ChemChina ha fatto un'operazione su Pirelli, si è poi deciso di quotare Pirelli separatamente dal gruppo che si era unito, e con un forte orientamento verso la tutela dell'italianità e un posizionamento alto di gamma di Pirelli. Non lascio concludere, poi le volevo leggere un bel messaggio di un ascoltatore che in tre parole dice tutto. Concluda, professor Noci. Quello che credo è che noi dobbiamo metterci nell'ottica che abbiamo bisogno di far ripartire la nostra economia. La nostra economia riparte nel momento in cui le nostre imprese avranno la capacità di adire in misura sempre più massiva i mercati internazionali, visto che la domanda interna non può per definizione supportare un processo di recupero dalla crisi del 2007. In secondo luogo, avendo un'apertura verso investimenti esteri che comunque tutelino la crescita del nostro paese, evidentemente un'apertura non cieca, cioè che deve guardare agli interessi del nostro paese e a tutelare determinati asset strategici. Allora, come giustamente lei osservava, parlare di difesa dell'italianità quando parliamo di Fiat non ha più senso, ma un ascoltatore osserva: bisognerà vedere se sarà Trump che sarà a guardare i cinesi che si comprano Jeep, professor Noci. Guardi, anche questo al radioascoltatore ha colto certamente nel segno. Tuttavia, il vostro radiogiornale poco fa dava una notizia di Trump che ha cambiato posizione sull'Afghanistan. Trump non è certamente, se mi posso permettere, con tutto il rispetto che si deve al Presidente degli Stati Uniti, un esempio di coerenza e consistenza. Da questo punto di vista certamente Jeep è un marchio che rappresenta emblematico degli Stati Uniti, tuttavia anche qui dobbiamo fare una riflessione e capire se Jeep può essere sacrificata in nome di un supporto che la Cina può dare nell'operazione con la Corea del Nord e in nome della partita commerciale che la settimana scorsa Trump ha avviato nei confronti della Cina. Quindi anche qui non dobbiamo guardare in chiave dogmatica a determinati aspetti. Certamente la Jeep è il rappresentante degli Stati Uniti, ma Trump ha dimostrato che la coerenza è il suo forte e soprattutto in chiave negoziale la Cina ha qualche munizione al suo arco. Professor Noci, un'ultima domanda, perché anche questa curiosità mi è venuta poco fa. Negli ultimi tempi abbiamo fatto anche un gran parlare della notevole mole di investimenti che è stata fatta da, per esempio, fondi sovrani arabi nel nostro paese, certo, il fondo di Abu Dhabi e altri appunto investitori in banche, nel settore immobiliare. Anche qui abbiamo una lista lunghissima di prede che sono state intercettate e sulle quali si è prontamente investito, ma con un atteggiamento abbastanza diverso rispetto ai cinesi, che hanno poi una comunità molto consolidata nel nostro paese, qualche volta anche al centro di un po' di polemica. Adesso ne parleremo anche con la collega del Sole 24 Ore, Silvia Peracini, che ha scritto qualche anno fa il libro Sotto Assedio, ricostruendo proprio quello che è successo nel distretto tessile di Prato. Ma ecco, ci fa un po' di punto della situazione rispetto alle differenze di questi due tipologie di investitori in aziende italiane? Assolutamente sì. Allora, diciamo che i fondi sovrani o i fondi generali arabi sono fondi che tendono ad effettuare operazioni di investimento, mi lasci dire, a scopo prevalentemente finanziario, anche quando investono in opere infrastrutturali o nel real estate, con obiettivi che sono mediamente di lunghissimo periodo. La Cina, quando investe anche attraverso il suo fondo sovrano, ha fino ad oggi privilegiato operazioni di natura industriale, proprio perché ha fame di know-how e ha fame di crescita della competitività del proprio sistema. Quindi questa è in questo momento la natura degli investimenti e gli obiettivi che sottendono questi investimenti la principale differenza. Devo però osservare che questa, purtroppo i media non l'hanno ancora divulgato in modo chiaro, che la Cina sta in qualche modo adesso prendendo anche una posizione di attenzione verso le operazioni infrastrutturali. Ad esempio, io ho assistito recentemente a un incontro con la più grande banca al mondo, che è cinese, neanche farla a caso, Industrial Commercial Bank of China, che ha stanziato una linea di 100 miliardi di dollari per investimenti in infrastrutture in Europa e che ha obiettivi molto importanti a supporto di operazioni infrastrutturali in Italia. Quindi credo che le motivazioni qui sia un po' diversa, non è tanto un'operazione finanziaria, ma quanto di anche di lasci dire di moral suasion politica, per fare in modo che Italia e Europa entrino un pochino di più nell'orbita della Cina in un momento in cui gli Stati Uniti mordono un po' il fianco. Grazie professor Noci per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Vado agli altri due ospiti con i quali completo il quadro dell'argomento del secondo tema di questa mattina, appunto Italia e Cina sempre più vicine. Allora, Luca Sheng Song è l'amministratore delegato di China Power SPA, ho detto tutto correttamente? Buongiorno Luca. Buongiorno, sì, salve. Allora, questa è un'azienda che fornisce gas naturale ed energia elettrica per uso domestico e professionale, è di Milano ed è un'azienda abbastanza originale che si occupi appunto di questo settore, cioè che un imprenditore, un'impresa cinese si sia impegnati in un settore come questo. Noi siamo abituati appunto a vedervi nelle nostre Chinatown, imprenditori appunto di altro tipo, più che altro commercianti, avete molti esercizi commerciali. Appunto, Luca, lei invece questa azienda come è nata, come mai avete deciso di impiegarvi in un settore tanto particolare, animato anche da tanto dibattito, perché noi italiani litighiamo anche molto spesso con le società della luce e del gas. Come le è venuto in mente di attivarsi proprio in un ambito come questo? No, diciamo che appunto nasce essenzialmente dall'esigenza del mercato. Proprio come diceva lei, è un settore che anche gli italiani stessi vedono poco chiaro e a volte hanno anche dei dubbi appunto sul proprio consumo. Questo a maggior ragione quindi porta ancora più confusione a chi la lingua italiana non la sa in maniera perfetta, quindi in questo caso anche la comunità cinese. Abbiamo quindi fondato questa società proprio anche per andare incontro all'esigenza di risolvere questo problema. Infatti noi serviamo principalmente la comunità cinese in Italia, sia sotto l'aspetto della luce e del gas, e la forniamo anche con un servizio in lingua madre, quindi consulenza dedicata in madrelingua e bollette tradotte anche in cinese. Certo, ma questo... i clienti italiani non vi cercano? Ci sono effettivamente anche i clienti italiani che magari incuriositi, magari anche no, per comprendere un attimo le offerte della nostra società, che ci cercano. Sì. No, mi raccomando, servite anche noi, perché sa, siccome, come le dicevo prima, litighiamo tanto con le nostre aziende italiane, magari voi ci date qualcosa di meglio e saremo ben contenti di ospitarvi anche nelle nostre case. Siamo molto aperti in questo, quindi non solamente parrucchiere, negozianti o tutti i ristoranti cinesi, ma insomma, se ci date anche qualcosa in più noi ne siamo ben contenti, magari qualcuno non è invece contento di quello che dico. E quindi insomma, una storia di piena integrazione, anche se siete qua per servire fondamentalmente la vostra comunità. Volevo far commentare anche questa storia, se lo ritiene, Silvia Pieraccini, collega del Sole 24 Ore, che è stata l'autrice qualche anno fa di un libro intitolato Sotto assedio, dove ricostruiva la storia del distretto tessile di Prato, quel distretto tessile che ha cominciato a formarsi all'inizio degli anni 90, quando gli immigrati cinesi cominciarono ad aprire i primi laboratori per cucire abiti non di elevatissima qualità, un frangente in cui pochi si curavano, come tu ricordi anche nella tua quarta di copertina, Silvia. Dopodiché questo territorio è esploso con tutti i suoi problemi, i suoi difetti e non solo. Ad oggi questo distretto che cos'è e cosa ti viene in mente anche leggendo sui giornali la storia invece di queste la ricostruzione di questi massicci investimenti che dalla Cina provano appunto a ritornare ad essere molto presenti appunto in Italia, e al contempo continuiamo invece ad avere queste polemiche rispetto a questi distretti che lavorano in condizioni ancora un po' leggermente problematiche, tanto per definire con un eufemismo. Silvia. Sì, buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Allora, volevo chiarire che il distretto tessile di Prato ha origini antichissime, fin dal Medioevo, e resta a oggi uno dei più importanti distretti tessili in Europa. Quello che si è venuto invece a formare dall'inizio degli anni 90, sempre nello stesso territorio pratese, è un distretto cinese dell'abbigliamento, quindi un settore molto vicino a quello del tessile. Il tessile produce filati e tessuti, l'abbigliamento cuce questi tessuti. Bisogna fare proprio distinzione di comparti merceologici, certo. Sì, però sono molto vicini, ovvio. Fanno parte della stessa grande filiera della moda. L'ingegno, se vogliamo chiamarlo così, cinese è stato quello di inserirsi in un segmento che a Prato non era molto sviluppato, ed è quello proprio della confezione di abiti. Il segmento che è stato presidiato è quello della confezione di abiti di basso costo, di bassissimo costo, che non sono abiti dei grandi marchi, sono abiti spesso che non hanno neppure il marchio, ma hanno un elemento fondamentale che è l'etichetta Made in Italy, cioè il fatto di essere prodotti sul territorio italiano permette di utilizzare l'etichetta Made in Italy e quindi poi di vendere e anche soprattutto di esportare questa gigantesca produzione con il vanto di essere una produzione italiana. Che cosa è accaduto? È accaduto un fenomeno davvero eccezionale in Italia, che è quello della creazione di un nuovo distretto industriale, che però è un distretto etnico, è un distretto in cui tutte le fasi della filiera produttiva sono presidiate da aziende cinesi, sono piccolissime aziende cinesi. Per tornare al tuo ragionamento, al nostro ragionamento sugli investimenti, in questo caso non si tratta di investimenti di grandi gruppi cinesi, questi sono piccoli e piccolissimi imprenditori, spesso che si sono fatti da soli, si sono, diciamo, improvvisati. In molti, moltissimi casi sono arrivati in Italia lavorando come operai nelle aziende che sempre cinesi che esistevano in Italia, arrivando anche a Milano, a Bologna, nelle aree insomma di grande presenza cinese. E poi quando sono stati in grado di avere un piccolo capitale e, come spesso accade nelle comunità cinesi, aiutati da parenti e amici, hanno creato delle piccole, piccolissime aziende. Sono in larghissima parte ditte individuali che hanno una prerogativa ancora oggi fortissima, che è quella della grande evasione fiscale, del mancato rispetto delle regole, dello sfruttamento dei lavoratori e della illegalità. Ecco, questo tema dell'illegalità, nonostante siano passati più di 25 anni dalla nascita delle prime aziende produttive cinesi a Prato, è ancora un tema fortissimo. E la peculiarità è proprio delle aziende, il fatto che sono aziende che producono, a differenza delle tante, tantissimi esercizi commerciali cinesi che noi troviamo nelle nostre città, dalla parrucchiera a quella che fa le unghie, quindi la manicure, piuttosto che il negozio di alimentari. Qui si è creato, in un'area a forte vocazione industriale, qual è ancora quella di Prato, un altro distretto industriale solo cinese che, se vogliamo dirlo in gergo, allunga la filiera, perché affianca alla produzione di tessuti quella di abiti. E il problema è che gli abiti non vengono realizzati con i tessuti fatti a Prato, ma vengono realizzati con tessuti di importazione cinese. Anche in questo senso possiamo dire che l'intera filiera è presidiata dai cinesi, perché gli stessi cinesi importano tessuto dalla Cina e poi lo cuciono, lo tagliano, lo cuciono, lo stampano, mettono l'etichetta, mettono le cerniere, le paillette e lo vendono appunto direttamente sul mercato. Quindi si tratta di investimenti, se vogliamo chiamarli greenfield, sono investimenti nuovi di sana pianta fatti appunto da imprenditori cinesi sul nostro territorio, però sono investimenti che hanno ancora forte questo bollo, questa caratteristica dell'illegalità. E naturalmente mi stavo chiedendo anche, Silvia, quale potesse essere il beneficio del mantenimento di una condizione di questo tipo appunto per il nostro tessuto economico. Abbiamo un minuto, sì. Su cui ci si è interrogati tanto in questi anni, se i cinesi siano una risorsa o siano un problema. Naturalmente sono entrambe le cose, nel senso che apportano ricchezza al territorio, dobbiamo intenderci di quale ricchezza si tratta. Sicuramente si tratta di ricchezza in termini di acquisti, in termini di prodotto interno lordo, perché una realtà di 50.000 persone, com'è quella, la comunità cinese a Prato, una città che ha 200.000 abitanti, avere 50.000 abitanti cinesi naturalmente significa avere una forte comunità che poi lì vive, compra, mangia, fa acquisti. E quindi c'è tutto l'interesse per quella comunità di mantenere ovviamente una relazione serena, pur a costo di chiudere l'occhio di fronte a quello che si sa. Che in questi anni di controlli se ne sono fatti pochi, si sono intensificati negli ultimi anni e oggi il fenomeno è un fenomeno, diciamo, sopportato, come spesso accade ai fenomeni di cui si parla tantissimo, che fanno grande scalpore, grande scandalo nei primi anni di vita e di esistenza. Dopodiché ci si adatta a tutto, e anche Prato si è in certo modo adattata a questa forte presenza cinese, che continua però ad essere appunto, in termini ad esempio di evasione fiscale, di evasione anche di tributi locali, davvero una realtà imponente, fa impallidire, certo, fa strabuzzare gli occhi, perché i livelli ancora di evasione, le tecniche messe in piedi per sfuggire ai controlli, per chiudere e riaprire continuamente le aziende in modo tale da non poter essere soggetti a sanzioni, o anche se si è soggetti a sanzioni a non doverle pagare, è davvero un meccanismo incredibile. Grazie Silvia. Sì. No, grazie per lo spaccato che ci hai offerto. Il tuo libro, dicevamo, del 2008 potrebbe essere riproposto alle librerie oggi tale e quale, perché mi pare di capire che dunque la situazione non sia cambiata, è semplicemente ancora più tollerata forse rispetto al passato. Detto questo, grazie per essere stata con noi. È tardissimo, devo andare all'ultimo blocco del nostro programma con un altro approfondimento, ma prima di tutto devo andare alla pubblicità. Tra poco. Ma cos'è quest'estate? Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no. Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! È scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io. No, tu no. Allora, adesso vi spiego il motivo per cui abbiamo scomodato questa canzone per introdurre l'ultimo tema di approfondimento di oggi. Allora, intanto qualche numero. In Italia i disabili sono 3 milioni e 200 mila, di cui 2 milioni e mezzo di anziani. La quota tra le donne è più alta rispetto a quella tra gli uomini. Inoltre, la metà dei casi le persone cumulano più tipi di limitazioni funzionali. Ci sono almeno 1 milione e 800 mila persone fra quelle considerate disabili gravi, mentre circa 540.000 hanno meno di 65 anni. La maggior parte di queste persone vive nelle regioni del Mezzogiorno, persone che già con le loro famiglie vivono mille difficoltà ogni giorno. E allora queste persone, signori miei, magari ditemi che cosa ne pensate, all'800240024, avranno pur diritto a qualche giorno di vacanza in località accoglienti e con strutture adeguate? Eppure il nostro è un paese in cui bisogna battagliare ancora parecchio solo per abbattere le barriere architettoniche di luoghi pubblici, ristoranti, alberghi. Immaginate cosa possa significare raggiungere le spiagge, cosa possa significare per chi si muove, per esempio, in carrozzina. E come se non bastasse, pure le spiagge attrezzate in modo adeguato e accessibili ai disabili vengono addirittura prese di mira dai vandali, come è accaduto nei primi giorni di agosto a Vernazzola, dove era stato appena inaugurato in Liguria uno stabilimento a misura di disabile. Vogliamo commentare questa vicenda con chi l'ha già fatto per alcuni giornali in questi giorni. Bello il titolo che a questa vicenda aveva dato Repubblica: com'è lontano il mare, la battaglia dei disabili per arrivare in spiaggia. Si raccontava anche della storia che invece si è consumata a Santa Teresa di Gallura, dove in pieno agosto sotto 40 gradi c'era appunto la storia di questo uomo con la moglie disabile in carrozzina che doveva trascinare per almeno 3 chilometri al giorno appunto per raggiungere la spiaggia che aveva scelto per trascorrere le sue vacanze. Una scena che è stata immortalata da un blogger su Facebook che è diventata naturalmente virale. Allora, buongiorno e grazie per essere con noi a Roberto Vitali, amministratore delegato e fondatore di Village for All, che noi abbiamo avuto già il piacere di avere altre volte ospite delle nostre trasmissioni. Signori Vitali, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo ricordare che Village for All è un marchio di qualità internazionale dell'ospitalità accessibile. La battaglia di Roberto Vitali è quella di creare quanto più possibile le condizioni giuste appunto nelle strutture turistiche del nostro paese per ricevere appunto le persone disabili. Quindi sostanzialmente chiedete agli hotel, agli agriturismi, agli stabilimenti balneari, ai musei e non solo, appunto, di affiggere sulla propria porta questo marchio, questo bollino Roberto, ma in realtà insomma il lavoro è ben più complesso, non si tratta solamente di affiggere un adesivo ai portoni. Che cosa fate esattamente? Beh, diciamo che l'adesivo al portone, alla porta d'ingresso, è la parte finale del nostro lavoro. Noi ci occupiamo di dare informazioni con tutta una serie di garanzie proprio nei confronti delle persone che si devono organizzare la vacanza. Noi sappiamo che rispettare le leggi è dovuto, il tema delle barriere architettoniche sicuramente è un tema importante, l'accessibilità è un tema importante, ma è ancora più importante per chi si occupa di turismo come noi da ormai 10 anni che celebriamo l'anno entrante di Village for All. È più importante cominciare a parlare di ospitalità, di accoglienza. Io non è importante avere la solita dichiarazione: venga nel mio albergo, stia tranquillo perché tutto è accessibile e rispettiamo le norme. abbiamo bisogno di capire quali sono le condizioni, servono informazioni affidabili e il nostro compito come Village for All è proprio quello di dare questa certezza. Ma il tema del turismo accessibile è un tema articolato, complesso, che comprende gli imprenditori, le imprese, le destinazioni, le amministrazioni pubbliche. Quindi noi quello che diciamo sempre è che invitiamo le persone che sono intenzionate a capire qualcosa di più a contattarci, mandateci un'email, telefonateci, sul nostro sito ci sono tutte le informazioni per contattarci, ne parliamo assieme e cerchiamo di capire qual è il progetto giusto per ognuna delle persone che vuole esatto. lavorare in questo settore. Senta, a parte questo, cosa ne pensa invece dei fatti di Vernazzola, dove la spiaggia, prima spiaggia pubblica completamente accessibile ai portatori di handicap, è stata addirittura così un po' presa di mira dai vandali? Ma io in realtà noi abbiamo questa abitudine di come dire sbandierare che facciamo una spiaggia accessibile. Io mi leggevo proprio in questi giorni il rapporto delle Camere di Commercio, ci sono 7.680 stabilimenti balneari e licenze per stabilimenti balneari in Italia. A voler essere ottimisti, oggi ci saranno 100-150 spiagge che vengono dichiarate accessibili. Poi bisognerebbe vedere in realtà quali sono le effettive dotazioni di queste spiagge, perché si pensa sempre alla disabilità motoria, ma ci sono i nostri senior over 65 che un po' fanno fatica a camminare per lunghi tragitti, un po' non ci vedono molto, poi ci sono le persone cieche, ipovedenti, sordi, ipoudenti, poi c'è chi ha intolleranze alimentari, che non possiamo certo considerare una disabilità in senso classico, ma sono tutte quelle esigenze che, se cominciamo a metterle assieme, fanno il mercato del turismo accessibile. Voi davate i numeri all'inizio di quante sono le persone disabili in Italia. Sì, sono dati Istat, forse non neanche tanto aggiornati. Ma, Sì, ma però è già una dimensione. Come possiamo pensare di diventare una destinazione con 100 stabilimenti balneari accessibili per 4 milioni di persone? Allora, l'accessibilità deve diventare una sensibilità probabilmente più diffusa e a questo cerchiamo di andare incontro parlando di ospitalità accessibile. Non è solo il tema del rispetto delle norme e delle leggi, a quello ci sono le amministrazioni comunali, le USL, le capitanerie di porto, ci pensano loro a far rispettare le leggi. Dobbiamo cominciare a far capire agli imprenditori che abbiamo un mercato, perché queste sono persone che quando vanno in spiaggia prendono l'ombrellone, lo pagano, esatto, quando consumano, bevono, mangiano, ecco. Bevono, non viaggiano mai da soli, hanno un effetto moltiplicatore, quindi per i tecnici lo dico questo, non si va mai in vacanza da soli e quindi in realtà stiamo parlando di dare dei servizi di qualità a un mercato, perché oggi quello che non viene riconosciuto a questi clienti non è la mancanza della possibilità di accedere, ovvero sì, in alcuni casi sì, ma nella maggior parte dei casi quello che non è riconosciuto è il diritto alla qualità, esattamente, dello stare in vacanza, alla qualità dell'ospitalità. Non sono solamente carrozzine che hanno bisogno di pedane per passare dalla strada, esatto, dall'asfalto alla spiaggia, alla battigia, ma qua c'è molto di più. E quindi la ringrazio Vitali per aver di nuovo ribadito questo messaggio, che mi ricordo l'aveva ribadito anche molto fortemente nell'altra trasmissione a cui aveva partecipato. Le faccio sentire anche le altre persone che abbiamo interpellato questa mattina, a cominciare da Francesco Pieri, coordinatore del servizio La spiaggia per tutti. Qua parliamo della realtà di Chiavari, dove anche in questo caso abbiamo avuto, qua poi non capisco il primato, Pieri, anche se non ha molta importanza. Voi avete attrezzato la prima spiaggia pubblica accessibile a tutti con assistenza per disabili. Che differenza c'è rispetto a quella di Vernazzola? Buongiorno Barbara, innanzitutto buongiorno a tutti. Deborah, ma è lo stesso, non si preoccupa, ma io stamattina ho sbagliato il nome del vice sindaco di Napoli, gli ho attribuito il comune di Milano, non c'è nessun problema. Ci dica allora che cosa avete fatto? Guardi, io non posso parlarle tanto della differenza, diciamo, della spiaggia di Vernazzola, ma le posso dire quello che offre avete la spiaggia fatto di Chiavari. Nostra spiaggia di Chiavari, sì, perché la conosco meglio. Allora, la nostra è una spiaggia libera, innanzitutto, e che è stata attrezzata per essere accessibile, quindi è una spiaggia che offre dei servizi totalmente gratuiti. Questo servizio è stato fortemente voluto dal comune di Chiavari ed è stato reso possibile da una rete di finanziamenti che ha visto coinvolti non solo gli enti locali, ma anche gli istituti di credito e dei privati. Sostanzialmente la spiaggia è, è attrezzata ad accogliere le persone con difficoltà motorie e le persone anziane, ma anche persone che hanno altri tipi di disabilità, come dicevamo prima, poiché è presente personale dedicato che aiuta i frequentatori, certo, della spiaggia e gli accompagnatori, quindi familiari, eventualmente gli operatori delle strutture che ci frequentano, a godere della permanenza in spiaggia delle nostre strutture. Ma è stata un'iniziativa pubblica spontanea, Pieri, oppure ha voluto rispondere in qualche maniera a qualche esigenza manifestata dalla comunità, appunto, delle persone che avevano queste necessità? Come si crea una iniziativa di questo tipo a fronte di una specifica, come dire, provocazione positiva, naturalmente? Guardi, sicuramente c'era un bisogno che è stato rilevato da parte dell'amministrazione pubblica sul territorio. Si è creato con un po' di fatica, nel senso che non è stato semplice trovare il finanziamento e non è stato semplice mettere in piedi l'intera struttura, anche perché siamo andati a ricercare le attrezzature adatte. Anche in termini di balneazione non abbiamo solo costruito bagni accessibili o una struttura adeguata con il camminamento per le carrozzine, piastrellato, gli ombrelloni, eccetera. Mm-hmm. Abbiamo anche cercato poi di rendere la permanenza adeguata, nel senso di far godere il mare anche a chi ha delle difficoltà. Quindi certo, siamo andati alla ricerca anche di ausili utili alla balneazione, come delle carrozzine che arrivano in acqua ed altre che galleggiano anche, diciamo, a filo dell'acqua. Quindi è stato un percorso molto complicato, ho visto anche un sacco di riunioni per trovare i fornitori adeguati per rendere. Infatti, però immaginate adesso, vedendola vedere in termini positivi, che sono quelli che ci sottolinea anche Vitali di Village for All, pensate le ricadute anche in termini economico-produttivi, se si attivasse in maniera più strutturata tutto questo circuito economico, quante ricadute positive ci sarebbero anche nell'intero sistema economico-produttivo del nostro paese, per cui per questo vanno sostenute ed aiutate queste attività. Pieri, io devo salutarla perché adesso ho la pubblicità, il traffico, anzi, e poi altri due ospiti, però ci è piaciuto questa fare la segnalazione, appunto, di questa vostra iniziativa, alla a quale speriamo ne seguiranno altre. Fra un po' vi racconteremo cosa fanno allo stabilimento La Girandola di Anzio, cosa fa qui l'associazione La Grande Quercia, e poi abbiamo anche con noi Vincenzo Falabella, presidente di FISCE, che è la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. A tra poco. Ma cos'è quest'estate? A proposito di turismo, quello che si sta consumando in queste ore invece è il Fuji Fuji da Ischia, come immaginavamo e come era probabilmente anche naturale che accadesse. Abbiamo una notizia relativa alla decisione presa poco fa da Federalberghi Ischia, che con i suoi soci ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente le camere delle proprie strutture ricettive per le popolazioni, gli ospiti dei comuni di Casamicciola Terme e Lacquameno colpite dal sisma di ieri sera. Gli alloggi sono disponibili nelle zone che non sono state interessate dagli eventi sismici, e Federalberghi Ischia ha anche informato che sta procedendo in questo senso in stretto contatto con il Centro Operativo della Protezione Civile. Allora, ritorniamo ai fatti liguri, alla vandalizzazione a cui è stata sottoposta questa prima spiaggia pubblica completamente accessibile ai portatori di handicap nel quartiere, è stato ribattezzato, io non lo conosco bene, di Vernazzola. Allora, Vincenzo Falabella, presidente di FISCE, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, rileggendo questo articolo su Repubblica dove lei è stato interpellato, mi ha colpito molto questo commento che ha rilanciato. Lei ha detto: la verità impronunciabile commentando questi fatti è che la persona con disabilità non è benvenuta, deve essere tenuta nascosta perché crea imbarazzo. Televisione, cinema e pubblicità ci trasmettono continuamente l'immagine dell'uomo forte, bello e muscoloso. Se non sei così, sei inutile, sei anzi dannoso per l'immagine di un luogo. Sono frasi piuttosto forti, ma è evidente che avete questo tipo di percezione, Falabella, o sono solamente dei fatti isolati che speriamo di non dover più raccontare? Innanzitutto buongiorno a tutti, saluto il mio amico Roberto Vitali, con il quale stiamo portando avanti ormai da anni una battaglia inclusiva per le persone con disabilità. Niente, effettivamente oggi lo stigma e il pregiudizio nei confronti delle tante persone con disabilità in questa società è sempre più forte e sempre più evidente. Fatti non solo quelli riferiti all'ultimo caso, ma sono purtroppo numerosi. Il nostro osservatorio a livello nazionale ci fa capire che lo stigma e il pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità ancora oggi è forte. Una società che non accoglie, una società che non include, ma esclude. Da qui quelle mie frasi, quelle mie affermazioni al giornalista di Repubblica, proprio per lanciare un grido di allarme che non deve terminare soltanto con la conclusione della fase estiva, ma che deve porre l'attenzione tanto delle istituzioni quanto della società in cui viviamo, della comunità di appartenenza, perché da qui parte l'inclusione. Senta, Falabella, in questa vostra battaglia che lei ci diceva state portando avanti appunto con Roberto Vitali, che vi ha consentito di portare a casa anche tanti buoni risultati, sicuramente ci può raccontare che cosa riscontra ancora sul territorio nazionale, dove le bellezze artistiche, i luoghi di turismo da raggiungere sono tanti? Per fortuna abbiamo un'offerta enorme, per cui ci sarebbero davvero tante opportunità. Quali sono le resistenze ancora più diffuse da parte degli imprenditori del settore? Quali invece le aperture che magari vi hanno colpito di più e che avete avuto modo appunto di testare in questi anni di impegno così concreto su questo versante? Ma guardi, noi abbiamo un sistema normativo italiano che prevede che le persone con disabilità devono essere poste al pari di un'altra persona nelle condizioni di poter scegliere liberamente dove andare in vacanza, quale stabilimento balneare utilizzare, dove poter vivere piena autonomia e quant'altro. Questo lo prevede la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che lo Stato italiano ha recepito con la legge numero 18 del 2009. Da un punto di vista normativo siamo a posto, da un punto di vista culturale ancora oggi purtroppo abbiamo delle resistenze. Io sono contrario, mi permetta di dirlo, alle spiagge riservate alle persone con disabilità o le spiagge accessibili alle persone con disabilità. A me piacerebbe che le spiagge fossero accessibili a tutti, comprese alle persone con disabilità, perché io solo così, la persona con disabilità solo così può essere messa nelle condizioni di poter scegliere liberamente. La condizione di ghettizzazione non le piace, evidentemente, posso dire di essere d'accordo. Certo. D'accordo, Falabella, sì. Certo. No, tra l'altro avevo invitato anche i nostri ascoltatori ad intervenire, ne ho più chiamati, in realtà se hanno voglia qualche commento finale lo possono anche rilasciare al nostro numero verde all'800 24 00 24. Detto questo, invece, che sensibilità sta trovando in giro per l'Italia, Falabella? È una sensibilità che parte dal movimento delle persone con disabilità, nel senso che laddove un territorio è aperto ed è inclusivo, questo avviene perché c'è una responsabilità da parte del movimento associativo, da parte delle stesse persone con disabilità che si rendono promotori o promotrici e quindi cercano attraverso le istituzioni di sollecitare le istituzioni affinché quel territorio diventa fruibile. Io credo che occorre cambiare paradigma, non valutare i bisogni delle persone, ma valutare i diritti delle persone, perché ogni persona ha dei diritti, altrettanti doveri, ma quei diritti vanno rispettati. Oggi per le tante persone con disabilità purtroppo avviene una violazione costante e continua di quelli che sono i diritti, tanto costituzionali quanto quelli previsti e garantiti dalla Convenzione ONU. Senta, Falabella, poi vado all'ultima ospite. Lei è stato scomodato con la richiesta di un commento in queste ultime ore anche per dire la sua sulla vicenda che si è consumata invece a Carugate, qua nel Milanese, dove questo automobilista è stato multato per aver sostato la sua auto nel parcheggio dei disabili, e questo non sarebbe nulla di grave, scontato appunto che i vigili lo facciano. Il tema è che la persona disabile che aveva bisogno di quel posto ha segnalato la presenza di quest'auto ai vigili urbani, che hanno appunto messo la sanzione, ma il signore che è stato colpito dalla multa non si è accontentato di finirla lì, ha messo questo simpatico cartello sull'auto della persona che aveva chiamato i vigili: a te handicappato, con due C peraltro, quindi anche dal punto di vista grammaticale molti passi avanti da fare, che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più, vorrei dirti questo, a me 60 euro non cambiano nulla, ma tu rimani sempre un povero handicappato, un'altra volta con due C, sono contento che ti sia capitato questa disgrazia. Lo so che non si commenta, che si commenta da sé questa vicenda, Falabella, però una parola da parte sua la voglio sentire. Ma indignazione e amarezza. Amarezza perché poi, ancora una volta, questi episodi fanno capire come le persone si pongono nei confronti di chi ha oggi e di chi vive con una disabilità. Non a caso, io credo, al di là della poca conoscenza grammaticale di questo soggetto, non a caso è stato utilizzato la doppia C proprio per rafforzare ancora certo. questo stato di handicap, anche se devo dire oggi non si parla più di handicap ma si parla di persone con disabilità, perché la condizione di disabilità non deriva più da una condizione di salute ma l'interazione con l'ambiente esterno. Più l'ambiente esterno è ostile, più viene diciamo così evidenziato lo stato di disabilità del soggetto, della persona stessa. Quindi io credo che, al di là dell'indignazione e dell'amarezza, credo che a questo punto la magistratura, la procura debba fare il suo corso. Ci sono tutti gli estremi per una diffamazione e quindi ci sono tutti gli estremi per una contestazione di un reato penale. Credo che questa persona debba subire la giusta sanzione. È già stato segnalato alla Procura della Repubblica, perfetto, fa la bella. Perfetto. Senta, quindi voglio sentire. No, purtroppo la interrompo brutalmente perché sennò non ho tempo per sentire negli ultimi tre minuti che ci rimangono. Katia Chianelli, Associazione La Grande Quercia, stabilimento La Girandola di Anzio, anche in questo caso per voi struttura ricettiva attrezzata per le persone con disabilità. All'inizio di luglio anche il vostro stabilimento è stato danneggiato dai vandali e già la stessa sorte l'avevate subita l'anno scorso. Cosa ci racconta oggi Katia? Buongiorno a tutti. Sì, noi siamo una delle poche spiagge sulla nostra riviera attrezzate per persone con disabilità e questo è il secondo anno che siamo soggetti a atti di vandalismo, purtroppo per noi, e quindi la cosa diventa un po' problematica, insomma, perché arrivare la mattina e trovare tutto sfasciato, insomma, ti fa iniziare un po' male la giornata. Non demordete però dalla vostra attività. Quante persone riuscite ad ospitare ogni giorno, Katia? Insomma? Allora, diciamo che noi siamo sui 200 al giorno, poi dipende, anche di più nel fine settimana, dipende, sì, siamo fortunatamente... Tanta gente inizia a conoscerci, per fortuna, anche chi viene in vacanza comunque adesso ci trova facilmente rispetto a prima. Che cosa ha di speciale il vostro stabilimento, a parte il fatto di non essere pubblico, perché voi siete nati grazie ad un'iniziativa di familiari e volontari, no? Noi abbiamo vinto una gara d'appalto a costo zero, quindi siamo due associazioni, La Grande Quercia e Adamo Eventi, e abbiamo preso in gestione questo tratto di spiaggia a costo zero, ovviamente, quindi non prendiamo sovvenzioni. E quindi tutto quello che facciamo è grazie alle donazioni e alle persone che ci conoscono e che ci aiutano, insomma. E che hanno bisogno di voi e della vostra attività, Katia. Allora mi raccomando, io vorrei non sentirla l'anno prossimo per il terzo anno consecutivo di atti di vandalismo. Speriamo. Mi raccomando, però non scoraggiatevi rispetto alla presenza di questi di queste persone non molto intelligenti, perché devono rovinare appunto la vacanza ad altri. Grazie comunque anche a Katia per essere stata con noi. Katia Chianelli, La Grande Quercia, La Girandola di Anzio. Noi abbiamo terminato anche questa mattina il nostro programma. Riesco finalmente a ringraziare tutti gli assistenti: Barbara Bianchi, Chiara Compagnoni, Peter Bescapè in assistenza tecnica. Torniamo domani mattina con Ma cos'è quest'estate? Da Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti.